fatali. In terza media scopro che i regni sono cinque, fatti a loro volta da generi molto diversi tra loro, diversi tra loro. Se non esistessero i fiori, riusciresti a immaginarli? Se non esistessero i pesci, riusciresti a immaginarli? In altre zone di questo universo è facile da realizzare. Esiste tutto ciò che io non riesco ancora a immaginare. È praticamente ovvio che esistano altre forme di vita. È praticamente ovvio che esistano altre forme di vita.